GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. I danni del grandinate in provincia di Udine, 300 imprese coinvolte, 22 milioni, il conto ancora parziale per il settore industriale, vertice delle categorie produttive con la regione. Incidenti sul lavoro, il Friuli Venezia Giulia risale nella drammatica graduatoria delle vittime, in pochi giorni due cadute da tetti disastrati. Grave motociclista di 18 anni dopo un frontale con una macchina nella notte accaduto in comune di Sandorligo. Vertenza Varsi, la soddisfazione e cautela dei sindacati dopo l'accordo sul rinvio dei licenziamenti e cassa integrazione. Prossimo passo, il piano per la riconversione dello stabilimento di Bagnoli. Il Silos di Trieste, vergognoso ricovero per i migranti esclusi dal piano di accoglienza, vi dormono talvolta anche in 300. Riciclarsi come tappezzieri, parlano i primi 10 allievi formati da un centro udinese e sono inoccupati, pronti a rientrare nel mercato del lavoro. Ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Maria Spezia. Sono le 12.31 e cominciamo con i danni delle tempeste di una settimana fa che sono tornati in primo piano dopo l'incontro di questa mattina a Udine tra la regione e le categorie economiche. Pesante il conto, ancora parziale, che riguarda il comparto produttivo. Una stima di oltre 22 milioni di euro e oltre 300 aziende coinvolte è il dato presentato dalla vicepresidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, che segnala la mancanza di periti e quindi la difficoltà delle aziende di rimettersi in moto. Quello che è stato delineato dal presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti è uno scenario pesante. Non c'è un'azienda che non abbia subito danni. Il settore del mobile è in ginocchio. Nell'incontro con la regione anche il punto sulle misure più efficaci per dare risposte rapide e esaustive alle imprese. Sergio Emidio Bini, assessore attività produttive. Quello che noi cercheremo di fare, parlo come attività produttive, è mettere a disposizione fondi di rotazione, liquidità al fine di sostenere gli investimenti delle imprese con condizioni di vantaggio. Quindi sarà mia cura da qui ai prossimi giorni incontrare il FRIE, incontrare il sistema dei Confidi e FVG Plus. Lucia Piu, direttore Confapi Friuli Venezia Giulia. La stima relativa a queste 55 imprese è di 6 milioni di euro di danni. Certamente alcuni investimenti sono coperti da polizza assicurativa. Quello che noi chiediamo alla Regione è di definire una procedura snella e semplice a cui le imprese possano fare riferimento. Giovanni da Pozzo, presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine. Il sistema camerale, rappresentando tutto il mondo delle imprese, dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e quant'altro, può dare anche un contributo su quelle che sono le indicazioni che provengono dalle imprese stesse. Ricordiamoci che quando avvengono questi eventi la circoscrizione del territorio è fondamentale. Venerdì intanto la Giunta regionale approverà la delibera che avvierà il procedimento, quindi tutti coloro che ritengono di aver ottenuto dei danni secondo le regole che saranno stabilite nella delibera con le casistiche che sono già pubblicate sul sito della Protezione Civile potranno presentare al proprio comune istanza di rimborso. Poi, spiega l'assessore alla Protezione Civile Riccardi, occorrerà capire come gestire anche in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, agli strumenti che lo Stato ci metterà a disposizione e soprattutto alle risorse che si auspica non siano importanti. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Intanto il governo conferma tutte le poste delle PNRR in questa tranche, compresi i fondi destinati alle opere contro il dissesto idrogeologico. Questa mattina in Parlamento il doppio intervento del ministro per il PNRR Raffaele Fitto, il servizio da Roma e di Francesca Cosentino. Stiamo garantendo le risorse per tutti gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Non c'è nessun definanziamento. Dentro il 2023 l'Italia riceverà 35 miliardi, cioè l'intera somma prevista. Il ministro per il PNRR, Raffaele Fitto, prima alla Camera e poi al Senato, ha illustrato le modifiche apportate al PNRR per poter ottenere l'ok della Commissione europea e non rischiare di perdere i fondi. Lo voglio dire ai sindaci con i quali ho parlato, lo voglio dire a chi ha immaginato scenari catastrofici. Gli interventi previsti all'interno del PNRR vanno avanti regolarmente. non c'è nessuna interruzione rispetto a tutto ciò che è previsto. Fitto ha definito le polemiche di questi giorni fastidiose e strumentali, dicendosi dispiaciuto per un dibattito su alcuni obiettivi come il dissesto idrogeologico, i piani di rigenerazione urbana o i beni confiscati alla mafia. Sono tutti progetti rimodulati, ha spiegato, con la Commissione europea, perché rischiavano di essere accantonati per questioni tecniche e giuridiche. Noi abbiamo l'obiettivo e il dovere di portare a compimento l'intero piano e per fare questo abbiamo bisogno di avere l'approccio corretto che ci ponga rispetto ai passaggi successivi in modo completo rispetto alla scadenza del piano, cioè rispetto a giugno del 2026. I dati dell'INAIL vedono la preoccupante risalita del Friuli Venezia Giulia nella scomoda graduatoria degli infortuni mortali sul lavoro. La prima metà dell'anno ci vede al terzo posto, subito dopo Umbria e Abruzzo. Numeri destinati a peggiorare con le vittime dei giorni scorsi, cadute fatali dai tetti in riparazione dopo la devastante grandinata. Le due morti sul lavoro degli ultimi giorni, che in regione hanno visto precipitare dall'alto lavoratori impegnati a tamponare i danni del maltempo sui tetti, sono destinate a peggiorare la statistica regionale degli incidenti, classifica aggravatasi negli ultimi mesi. In base all'indice di incidenza, ossia al numero di morti sul lavoro ogni milione di abitanti, gli 11 decessi del 2023 su 520.500 occupati nei primi sei mesi dell'anno pongono il Friuli Venezia Giulia al terzo posto in Italia. Eravamo ultimi nei primi sei mesi del biennio 2019-2021, risaliti di alcune posizioni l'anno successivo per tornare in fondo alla classifica lo scorso anno. Sono elaborazione dell'Osservatorio Ambiente e Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering di Mestre su dati INAIL, con l'esclusione degli infortuni in itinere che avvengono nel tragitto casa lavoro. Preoccupano i dati di Pordenone, settima provincia in Italia per rischio, con 5 decessi. Segue Udine al 40° posto con 4 morti, Gorizia al 42° con un decesso e Trieste al 67°, distanziato dal capoluogo isontino per il rapporto tra casi e numero di occupati. Tra le regioni italiane, peggio di noi solo Umbria e Abruzzo. Quest'anno in fondo alla classifica invece Basilicata, Toscana e Molise. Secondo lo studio di Vega Engineering, a livello nazionale, per chi ha un'età compresa tra i 15 e i 24 anni, il rischio di morire sul lavoro è quasi doppio rispetto a chi ha un'età compresa tra i 25 e i 34 anni, mentre il rischio di infortunio per i lavoratori stranieri è quasi il doppio rispetto agli italiani. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca, un 18enne rimasto gravemente ferito la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto a Bagnoli, in comune di San Dorligo della Valle. Il ragazzo era alla guida di una moto su cui viaggiava anche un amico e si è scontrato frontalmente contro un'automobile. Il 18enne, finito contro il parabrezza della vettura, ha riportato un trauma cranico importante ed è stato trasportato all'ospedale in codice rosso. Traumi non preoccupanti per il passeggero. I temi del lavoro, soddisfazione ma anche cautela da parte dei sindacati per l'accordo raggiunto nella vertenza Varsila al tavolo ministeriale. La multinazionale si è impegnata a non licenziare nessuno fino al 31 dicembre. Intanto la cassa integrazione che scatta oggi garantisce da subito entrate dignitose per i dipendenti. Ora il prossimo passo è il piano di riconversione dello stabilimento di Bagnoli della Rosandra. Ieri sera, dopo ore di trattative, Varsila, Ministero, Regione e sindacati hanno firmato l'integrazione all'accordo che impegna l'azienda finlandese a non licenziare gli operai della produzione, gli impiegati legati alla produzione, fino al 31 dicembre. In cambio inizia già da oggi la cassa integrazione fino a fine anno. Da qui si parte quindi per ridisegnare il prossimo futuro del sito industriale di Bagnoli della Rosandra alla luce della manifestazione di interesse espressa da Mitsubishi e Ansaldo Energie, che però non è vincolante per queste aziende multinazionali e per Ansaldo. Soddisfatti dell'accordo i sindacati FIM, FIOM e WILM e anche la RSU, abbiamo qui Fabio Canidisek, appunto della rappresentanza sindacale unitaria di CISL, che ci racconta come l'hanno presa i suoi colleghi. L'attenzione era molto alta, non soltanto nei 350 interessati al possibile esubero, ma in tutta l'azienda. Credo perfino i quadri e i dirigenti attendevano notizie importanti che secondo noi sono arrivate. Sono un segnale, non è definitivo, è però un passo fondamentale in questo percorso per il futuro della reindustrializzazione del sito, ma anche per il futuro industriale della nostra città. Questo poi è supportato da un accordo importante sulla solidarietà, che è una cassa integrazione integrata dalla regione, ma che siamo riusciti anche con un po' di difficoltà, ma con tenacia, a farla integrare anche economicamente dall'azienda. È un segnale forte che le persone non sono sole. Bagnoli della Rosandra, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Gli episodi di violenza e aggressività nei confronti degli autisti del trasporto pubblico locale devono essere perseguiti con pene certe, senza alcuna tolleranza per tali comportamenti inaccettabili. La sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri deve essere una priorità assoluta. Bisogna agire con fermezza ed efficacia per garantire un ambiente di lavoro sereno e protetto. Lo chiedono in una nota le segreterie regionali di FIT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Autoferro e FAESA CISAL. Dopo l'aggressione dei giorni scorsi, l'ennesima subita da un autista, nel caso specifico un dipendente dell'APT di Gorizia, è avvenuto infatti che un viaggiatore si è scagliato contro il conducente dopo essere stato sollecitato a convalidare il biglietto, costringendo l'autista a ripararsi su un altro autobus in transito. Chiediamo, insistono i sindacati, un incontro urgente con il prefetto, durante il quale esprimere la nostra ferma richiesta di un intervento incisivo e risoluto. C'è la necessità che il reato di interruzione di pubblico servizio venga applicato ogni qualvolta accadono situazioni simili, conclude la nota. Nuovi sbarchi la scorsa notte a Lampedusa, una quarantina quelli che si trovavano su un barchino, le persone che si trovavano su un barchino di 6 metri salpato dalle coste tunisine e soccorso dalla Guardia Costiera. A bordo c'erano anche 13 donne. Tutti sono stati portati all'hotspot sull'isola, dove però ci sono già quasi 400 ospiti. Per 14 tunisine è stato disposto il trasferimento al CPR di Gradisca, a sua volta saturo, come più volte segnalato. E di ieri sera l'approvazione da parte del Consiglio Comunale Locale di una mozione che chiede la chiusura del CAR e dello stesso centro per i rimpatri. La struttura ospita 600 persone anziché 200 e l'affollamento rende difficilissima la gestione. La mozione sarà inoltrata alla Prefettura di Gorizia e al Ministero dell'Interno. E intanto anche a Trieste rimane esplosiva la situazione dei migranti e dei richiedenti asilo, molti dei quali sono ancora esclusi dal programma di accoglienza. In centinaia dormono all'addiaccio tra i ruderi del silos in Porto Vecchio, come confermato ai nostri microfoni qualche giorno fa da un giovane pakistano. Sono circa 200, qualche giorno anche 300, i giovani migranti che passano la notte al silos di Trieste. Quasi tutti sono stati già identificati dalla questura e sono in attesa di essere chiamati dalla prefettura per avere un posto in accoglienza, attese che durano 2, 3, anche 4 mesi. Vivono in condizioni di degrado e, come da tempo denunciano le associazioni che li affiancano, in stato di totale abbandono. Tende, rifugi tirati su da teli di tutti i tipi, altri teli stesi a terra dove le persone cercano di dormire, ma esposti al rischio di punture di insetti, ratti e serpenti, e delle mani di qualche ladro che ruba loro i soldi e i cellulari. Non si cucina al silo, si aspetta il pomeriggio quando la piazza Libertà si riempie di volontari che portano la cena, i vestiti e quello che potrebbe servire per sopravvivere. Si fa la doccia al centro diurno in via Udine, ma non sempre perché l'attesa è lunghissima. Lì c'è anche un medico che distribuisce qualche farmaco. Tanti rinunciano al pranzo nella mensa della Caritas perché bisogna andare in autobus e spesso non si hanno i soldi per il biglietto. Le nostre famiglie non sanno dove viviamo, altrimenti si preoccuperebbero, ci raccontano. Non sanno nemmeno quanto abbiamo sofferto lungo il viaggio, i respingimenti, le violenze delle polizie dei paesi balcanici. Si piange tanto alla sera, continuano a raccontarci, perché la sofferenza non vuole avere una fine per noi, anche se pensavamo di essere arrivati alla fine del nostro torturato viaggio. Questa è la situazione di più di 350 migranti che a Trieste dormono all'addiaccio perché non c'è spazio nel sistema dell'accoglienza, come ci racconta Maddalena Avon dell'ICS. Denunciamo ormai da più di un anno come ICS, ma anche come rete di associazioni presenti sul territorio, e la mancanza di reazione veloce e tempestiva sulle accoglienze dei richiedenti asilo. Inoltre crediamo che una reazione tempestiva e produttiva da parte delle istituzioni responsabili farebbe bene non solo a chi questo diritto ce l'ha, ma alla cittadinanza tutta. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il laboratorio per la verifica del falso documentale, unico in regione, ha consentito alla polizia locale di Trieste di scoprire che la patente di un kosovaro di 39 anni, fermato in città per un controllo, era contraffatta. L'uomo aveva esibito tutti i documenti richiesti, meno il permesso di soggiorno, ma la patente aveva fatto sorgere qualche dubbio agli operatori. Dopo la verifica l'uomo è stato denunciato e dovrà rispondere penalmente di falsità materiale e uso di atto falso, oltre che pagare sanzioni per più di 5.300 euro. Sono le 12.45, il meteo, tempo in peggioramento con temporali che nel pomeriggio potrebbero essere forti su tutta la regione. Poco fa la Protezione Civile ha emesso un'altra allerta di colore giallo per 12 ore, sarà valida dalle 15 fino alle 3 della notte. E ora vediamo il bollettino. A Trieste sono stati registrati alle 11 26 gradi e 5 decimi, il mare ha una temperatura di 26 gradi e mezzo, a Pordenone 22 gradi e 5 decimi, a Gorizia 21, a Udine 20 e 5 decimi, nell'area montana a Tolmezzo 20 gradi, a Tarvisio 19 e 5, a Sappada 16, 17 gradi a Forni di Sopra, 15 e mezzo sul Piancavallo. In quota abbiamo ancora sul Lussari e sullo Zoncolan 12 gradi. Sulla costa Grado 26 e mezzo, a Lignano 25, con temperatura del mare nelle due località a 27 gradi. Le previsioni dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per le prossime ore: probabili rovesci temporali, interessando prima la zona montana e in seguito anche pianure costa. Qualche temporale potrà essere forte. Per domani su pianure costa cielo da sereno a poco nuvoloso, al mattino soffierà bora moderata, poi venti di brezza. Sulla zona montana cielo variabile, nel pomeriggio non si esclude del tutto qualche locale rovescio, in quota soffierà vento da nord-ovest moderato. I primi 10 aspiranti tappezzieri formati dal neo avviato Centro per la Formazione, che ha aperto lo scorso autunno a Udine negli spazi della Casa dell'Immacolata di Don Emilio De Roia, sono pronti allo stage nelle aziende dove sono ricercatissimi. Per la gran parte di essi si tratta di inoccupati con esperienze lavorative molto diverse. Sentiamoli. Sono stati i primi ad aver imparato il mestiere del tappezziere nel laboratorio aperto dalla nuova piattaforma dedicata alla formazione e all'addestramento del settore imbottito, da poco avviata dal cluster arredo alla Casa dell'Immacolata Don Emilio De Roia a Udine. I 10 aspiranti tappezzieri hanno risposto alla chiamata del Centro per l'Impiego di Cividale. Quasi tutti sono inoccupati, alle spalle lavori molto diversi, età media 45-50 anni, 21 e 30 anni i più giovani, e non solo donne. Età? 30. Lavoravo in una cioccolateria. E adesso tappezziere. Esatto, sì. Ho detto perché no. Mi piaceva cucire, mi devono essere le opportunità, ma soprattutto anche i giovani devono mettersi in gioco. Io vengo da hotelleria, lavoravo in un hotel. Quanti anni ha? 48. Cosa le piace di più? Cucire, che non pensavo che mi potesse piacere. Il corso, gestito da ENAIP Friuli Venezia Giulia, è gratuito ed è finanziato da fondi pubblici anche europei. Tra i corsisti, anche percettori di sostegno al reddito, la speranza per tutti è di trovare subito il lavoro. Comunque l'impegno richiesto è molto grande, perché si tratta di 8 ore al giorno. È impossibile per noi trovare altri lavori, e quindi si spera, insomma, che questo impegno porti poi a una situazione proficua, ma non abbiamo nessuna sovvenzione. Sarebbe molto interessante se ci fossero per esempio dei buoni pasto o dei buoni benzina, delle cose così per venirci incontro. A rimettersi in gioco anche chi un lavoro nel settore ce l'ha e vuole aggiornarsi, nuova opportunità offerta dal progetto che rientra tra i corsi di Piazza Gol promossi da Governo e Regione. A settembre il tirocinio in fabbrica, occasione che potrebbe portare al lavoro che cercano. La coordinatrice del corso, Laura Ruocco. Abbiamo ottime speranze, nel senso che il corso è nato proprio da una richiesta diretta delle aziende che hanno bisogno di inserire nuovo personale all'interno del loro settore di attività. Lo stage sarà il banco di prova. Le aziende sono ben disposte e speriamo che ci sia un matching, che si incontrino, insomma, favorevolmente. Lara Boccalon, TGR, Friuli Venezia Giulia. Tra i temi più bersagliati dalla disinformazione è quello dello sbarco sulla Luna. Sull'argomento la collega della redazione di Leonardo, Simona Tanzini, ha intervistato Michele Maris, astronomo dell'INAF, all'Osservatorio di Trieste. Sul progetto lunare non hanno lavorato solo pochi astronauti e pochi ingegneri, hanno lavorato 400.000 persone, pressappoco, tra le persone direttamente implicate. Poi c'erano le persone indirettamente implicate, per esempio tutti gli scienziati degli altri istituti esteri agli Stati Uniti, si intende, che hanno ricevuto materiali lunari. Allora sarebbe stato praticamente impossibile simulare una cosa di questo genere a questo livello di dettaglio. Alla domanda se l'uomo è davvero arrivato sulla Luna, la risposta dell'astronomo INAF Michele Maris è netta. Sicuramente sì, non solo per il numero di persone coinvolte e di articoli scientifici, spiega, ci sono le foto realizzate dalle missioni lunari successive e molto altro, ma anche Luna, comete, asteroidi, pianeti possono essere protagonisti di disinformazione e fake news, e non da oggi. Nel 1910, in occasione del passaggio della cometa di Halley, si incrociarono due notizie, interpretate però male. La prima, che probabilmente la Terra avrebbe attraversato parte della coda. La seconda, che dalle prime analisi effettuate in spettroscopia, proprio lì era stata rilevata la presenza di un gas di cianuro. Allora qualcuno fece 1 più 1 uguale a 4, pressappoco, e concluse che il cianogeno avrebbe avvelenato l'atmosfera della Terra. In realtà la frazione di gas che la Terra può raccogliere durante il transito in una coda cometaria è talmente minuscola, intanto non potrebbe penetrare nell'atmosfera, ma in ogni caso da essere assolutamente trascurabile. Altro argomento che ogni tanto viene riproposto è quello sulle possibili conseguenze di un cosiddetto allineamento dei pianeti, peraltro apparente. Escono fuori fake news su possibili effetti gravitazionali che porterebbero poi a sconvolgere il pianeta in qualche maniera, cioè a causare, che so, un aumento dei terremoti, un aumento delle tempeste, uno stravolgimento della rotazione della Terra. Ecco, bisogna tenere conto che i pianeti in realtà sono messi su orbite tali per cui si disturbano pochissimo uno con l'altro, altrimenti il sistema solare non sarebbe stato insieme 4 miliardi e mezzo di anni. Questione più complessa è quella degli asteroidi. Esistono numerosi progetti per identificare quelli potenzialmente pericolosi. È di settembre la missione DART per deviarne la traiettoria qualora in futuro si rendesse necessario. La probabilità di impatto viene calcolata tenendo conto delle incertezze che riguardano posizione e velocità e che poi diminuiscono con le misure successive. Il problema è che quando viene emessa questa notizia in una maniera tutto sommato tranquilla e asettica, più o meno come può essere tranquilla e asettica una previsione del tempo da qui a 15 giorni, quando avremo solo una vaga idea di come andrà a finire il meteo, ma ancora non sappiamo se davvero pioverà oppure no, c'è chi riprende questa notizia e costruisce tutta una narrazione differente. Uno dei consigli è quello di informarsi sui siti professionali come quelli di INAF, ESO, CNR, ESA, NASA. Va alla scrittrice Mariolina Venezia la quarta edizione del premio letterario Friuli Venezia Giulia e il racconto dei luoghi e del tempo istituito dalla regione con Fondazione Pordenone Legge. Venezia riceverà il premio in occasione della 24esima edizione del festival a Pordenone sabato 16 settembre. Nell'occasione presenterà racconto inedito Ritorni, che è l'autrice della saga di Imma Tataranni, dedica a Trieste, che uscirà per le edizioni Italo-Svevo. Il resoconto di raccolta e monitoraggio rifiuti realizzati da volontari Lega Ambiente del gruppo Ripuliamo Pordenone sarà abbinato alla proiezione del film Materia fuori posto del documentarista austriaco Nikolaus Gerhalter. Il documentario propone un'indagine sullo smaltimento dei rifiuti dall'Asia all'Europa passando per il deserto del Nevada e le Maldive. Appuntamento a Pordenone nello spazio Wow nei giardini Francesca Trombino alle 21 in caso di pioggia a Cinema Zero. Abbiamo intervistato Riccardo Costantini, curatore della rassegna allo spazio Wow, per chiedergli cosa colpisce nella visione di Materia fuori posto. Il servizio non è pronto, lo recuperiamo in breve. Parliamo adesso di un disegno del cantiere di Monfalcone del 1931, acquistato da una casa d'aste. Si aggiunge all'archivio del Consorzio Culturale del Monfalconese. Si tratta di un bozzetto, con ogni probabilità eseguito dall'ufficio statistico del cantiere, che ritrae la situazione dell'intero stabile alla data di esecuzione. Il disegno sarà collocato in modo permanente all'interno della mostra alla Porta di Panzano, ospitato nell'ex albergo Impiegati, ora Europalace, appunto, a Monfalcone. E ora sentiamo l'intervista con Riccardo Costantini, curatore della rassegna, e a proposito della visione di Materia fuori posto a Pordenone. Geralter è uno dei grandi documentaristi della contemporaneità, è un osservatore che utilizza moltissimo il campo lungo, ci mostra quindi l'uomo nel contesto, viaggiando fra Svizzera, Albania, Nepal, Maldive, Austria, Grecia, il deserto del Nevada, ci mostra dei luoghi bellissimi dove basta magari spostare un poco una zolla ed esce tutto quello che abbiamo cercato di nascondere. Quindi mette in relazione l'uomo con l'eterno problema della produzione dei rifiuti e si interroga sulle modalità per smaltirlo. Colpisce nel film, che dà anche titolo poi al suo lavoro, Materia fuori posto, l'azione che avviene al Burning Man Festival nel deserto del Nevada, dove migliaia di persone ballano ininterrottamente per giorni e non lasciano un rifiuto che sia uno. Non ci deve essere materia fuori posto. E quindi ci sembra, nel documentario che vedremo stasera, una cosa di un'attualità assolutamente stringente. Questa tecnica del campo lungo aumenta l'impressione di questa vastità, di questo fenomeno? Sì, perché fra l'altro, se pensiamo a com'è fatto il nostro modo di guardare oggi, siamo concentrati direi quasi al palmo di fronte al nostro naso, guardando schermi sempre più piccoli, è un atto di restituzione anche del ruolo dello sguardo nel guardare l'ambiente. E anche per questo che proprio nel presentare questa serata porteremo come esito un'azione che abbiamo condotto nello stesso spazio Wow che ospita la proiezione, dove alzando lo sguardo ci siamo accorti che con una raccolta fatta in una mattinata c'era una bottiglia intera di mozzicone di sigaretta, dimostrare che abbiamo proprio la necessità di non riempirci la bocca di uno spirito ecologico, ma di mettere in azione una relazione vera con lo spazio che c'è circostante e che passa ovviamente anche per riprendere coscienza con uno sguardo proprio, ecco, sul mondo che ci è attorno. In chiusura una notizia di basket: saranno Pallacanestro Trieste, Gestecco Cividale, Forlì e Vigevano le partecipanti al quadrangolare di Lignano, in programma l'1 e il 2 settembre. Nella prima giornata Trieste affronterà i Romagnoli e Cividale se la vedrà con Vigevano. Il giorno successivo si disputeranno le due finali. La Pallacanestro Trieste del nuovo coach Ramon Christian debutterà il 22 agosto, appena 5 giorni dopo l'inizio della preparazione contro una formazione universitaria statunitense. È tutto per questa edizione, che è stata realizzata da Maria Spezia e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Alex Ollan, e Vasia Krismancic, ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Sono le 12:57 minuti e 30 secondi, la prossima edizione alle 15. Grazie per la vostra attenzione, buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.